708. Albicocche incomposta. Albicocche poco mature, grammi 600. Zucchero in polvere, grammi 100. Acqua un bicchiere. Fate un'incisione nelle albicocche per estrarne il nocciolo in modo che non si guastino e mettetele al fuoco con l'acqua suddetta. Quando questa comincia a bollire, versate lo zucchero e, scuotendo di tratto in tratto la casseruola, lasciatele cuocere. Divenute morbide e alquanto grinzose, levatele una per una con un cucchiaio e ponetele in una compostiera. Scolate l'umido che hanno portato seco dalla casseruola e lasciate restringere al fuoco l'acqua rimastavi, che verserete nella compostiera sopra le albicocche quando sarà condensata come un siroppo. Servitele diace.